vassoio. Troppa gracchia, una vecchia ti sposa. Appellerò al consiglio reale. Fatti con Dio, sto zitto, avrai le beffe. Questi consiglio mio. Non è finita! Quel diavolo! Bartolfo, per dottore, tu ieri m'hai fatto bere. Purtroppo, e che dolore! Tutto mal, un tuo pronostico partiti, ho l'intestino quanto malato agli occhi che dalla calcia al dino. Vedi questa meteora, la vedo, e sta di corca rossa così ogni notte. Pronostico di forza, hai fatto per portante, con lui da rando tra sé. Poi quando lui ben giusterò, mai tuo capo le tasse. Oddio, che a quel mestiere certo fu lui. Guardate come sapeggia il Diego, quel ceppo da bugiardo, qui c'era due scellini dal regno d'Edoardo, e sei mente corone donne di fattussegno. Avrol chiedo di battermi con quest'arma di legno, ti sentisco mi colpo mio senti uomo. Siete dei razzi artisti. Oh!